maggio. Settembre è tappa. No, io non ho ancora troppo presto. No, no, non c'è nessun casino pure. Tardi, poi passa asciutta e via. Sono stanco, ma volevo finire quel muretto, là. E invece ho asciugato quel muretto, quello dopo. Oh, fra, com'è così veloce la freccia del computer? Quando si sparisce, non mi dico di volte, come mai? È troppo veloce, ma giù con quello. Una schiglia, E devi avere un piano scuro. Un piano scuro. Sì, non lo so, non ho neanche trovato. Anche perché non sapevo che c'era quel tipo di mouse. Non avevo uno scuro di che cosa? Un piano scuro, mi hai detto, così è. È un piano scuro per il fascio luminoso. Schizia, l'ottico è micidiale. Non è come la pallina, no? Ah, ma la pallina non c'è nulla, ascolta. Prendo che scendo la luce a vedere se c'è una mano. Così, se no la bomba cucina, io la voglio. basta, ancora non c'è il problema. Un po' di pasta, un po' di patate fritte, fettine, chi più bello, non è il problema. Dici no, cazzo, tu fai i ricotti, pizza, mi ha lì, a pepe di zero, dati sul gotto, come non mi ha capito. Da un credo, il mondo è di dire sì, però c'è gente che purtroppo non ha pensato così. Va bene, dai, io ti devo lasciare perché è già pronto, dai. Ci sentiamo dopo, più tardi, domani ci coincide, dai. Ci sentiamo più tardi, ciao. Cioè, è pronto i nocchi già maramadetta. Ciao, ci sentiamo dopo. ne devi andare, per quello ti stai facendo bello. Ah, sta lì. Ma tu ora, la tecnologia accendi, c'hai? Negativo. Accendi la subito finale. Chiama la riva. Tengo, minchia. Numero 5. soga, cos'è che c'hai sotto le mani? Sotto. E piedi questo, questo funziona bene, mi modoli. Oh, anche questo qua va benissimo, con le... lui aveva la modulazione alla... come può essere... cosa? Come si chiama? Ma... adesso mi ricordo, meglio che siamo a noi portanti. Piccola, cambio! Attento Alex, se mi ascolti, gaffa! Oh, sono Gianni, gaffa! Cambiato la modulazione, che non ti stavo riconoscendo. Siamo in macchina di barra, capito? Perché? Come va la fa la voce? Sì, ovviamente, sì, però con l'eco, bene, bene, va bene. Ma è buona come modulazione questa. Ehi, ehi, ti passo al tutto, là. Ciao, buona carica, là. Ehi, Gianni. Adesso come va a casa, attacco con quello di casa, magari se siete ancora lì ci sentiamo, dai. Ma che la fa? Vai, vai, non c'è problema. Stavo provando per vedere come andava con noi, come si comportava. Cambio, paura. Ehi, è bella, con la modulazione è bella, si sente ben chiara la voce con l'eco di lusso. Questo qua era 48, doppio modulatore, è una bomba. Cambio! Oh, il Natalino che fine ha fatto? A casa se ne è andato? Lo sa. Il Natalino che fine ha fatto? C'è dal Balti, Ok ragazzi, ci sentiamo dopo, dai. Ok, ciao ragazzi. Ura. Attenzione, binario 10. Vi ascoltate questa piccola stazione KK. Piccola stazione, chiappa, chiappa e chiappa. Oh, oh. Hola. Sentite qua la stazione di Pomponia, chiappa. Stazione Barra Agricola, cambio, cambio e cambio. Binario 10, se copiate qua la sensazione, cambio. Ciao, ragazzi. gamba. Dove sei a casa? Come non ho tutto sentito? E perché stavo mangiando un morso, ero. C'avevo lo stomaco vuoto tutto il giorno. Veglia, sta pronto, chi c'è adesso qua? Non solo, ma lui c'è a casa. Dava. Sì, a me è arrivato forte. Pure non c'è niente passato. Io c'ho una forte qua, Siciliale. Non lo saprei perché parla agricola, c'è il paracchino della compresso. Ecco, parla agricola, che fine ci hai fatto? Tu riprova a fare un passaggio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dimmi lo tuo, com'è? Chiaro, 9, radio 5. Bastardo, parla lì. Stiamo provando il baracchino, vedete, nelle casse dell'appunto, di quella, per l'orecchio dell'appunto, con la cariola. Io parlo agricola, ascolta, ma non è che c'hai un carrello vecchio che non ti serve da venderti, un carrello, ma capito, di carrelli si attaccano a molto tutti i valori. No, io c'ho il carrello per attaccare al trattore. Non è roba che non si serve, no, di questi carrelli così. No, i carrelli io ce li ho tutti grandi. Ultimamente mi ho comprato il carrellino per la macchina, ma quello non lo vendo. Pagava, dai. Ma qualche riencino se ce l'ha qualcuno a seconda mano, a stato da poco, che mi serve? I nemici ci sono LB, che costano 1200 euro. Cambio! E appena ne fa tutti i canti. Ah, ciao a Sassari, Sassari non c'è in zona. Gava. Un attimo di fianco che faccio un accoggio, dai. Yeah. via Sorso, come cavolo si chiama? Dove c'è il mare, dove si è fermato Claudio? Via Pascoli! Pascoli, Giuseppe. Con la nostra da guardia, la bambina la punto bianca, semicuffi, dove te la trovi, cambio? Siamo con l'altro. E quindi via Sorso, via Pascoli, a 13 al quadrato, capa. Stiamo partendo, stiamo arrivando. Dicati che qua, se no mi canta la cicogna canta. Attento Antonio, questa voce maschile. Sembra la voce di Maui Camber. Devo ne dare adesso che mi sto sopra. Se per parlare Natalino, forse è vestino, canto. Domani vi sarà più di travagliare che altro, e i roffitti, andare a burrata, lo sai cosa tutto lo può fare. Vabbè, mi piace a questo per far farlo, quando c'è il tempo va bene, va bene. Ciao Gianni, ciao a tutti che ci hanno ascolto, dai, anche io mi rispondo, ciao ciao. Ciao ciao Alessia, ciao, ciao Gianni, ciao Atari. Ah, parla agricola. Ciao. Attento, parla agricola, ma senti questa voce macchina. Questo microfono, tipo la voce di Luigi. Già, la stessa voce ci ha detto. Ciao gara. Cambio, cambio e cambio. Va bene, se vuoi l'elicottero te lo do io, però casa parcheggiato. Provare a vedere come esce quello lì. Proprio così, gli attacco questo microfono. minuti c'è anche l'FM, almeno può durare anche in FM volendo, dai, se passare in FM puoi andarci. Infatti. Se riesco a fare a conservare un cielo, mi faccio mettere anche il canale nell'altro, almeno so che un po' di canali. Ma io gli faccio normale, vanno bene così, mi sono venuti. È un peccato toccare, tu magari difettano. Ho lasciato dei canali, no, non difettano. Mi lo metti qui, anche se lo bisogna, no? Via, e per passare ci ho messo lì. Via, io ho messo un programma di pattoncino vicino a me, mi andavo che lì a quello lì. Allora, se tu si chiama niente, maledetto. Vabbè, tutti lo mangiano. C'è il Niger in mezzo che lo mangiano un bel, quei semi di Niger che ci sono dentro, quelli lì ne mangiano un bel canarino. Se lo prendono scuso il Niger ti conviene comprarlo anche a parte. E quindi sono Niger? No, me lo mischi insieme all'altro. Sotto. Il Niger mi sembra che vi piace di più il canarino. Io chiamo mentale Niger, capito, già ho capito da lui. E comunque anche l'uomo ce ne fa bene, ha l'erba con l'uomo. E no, io ho comprato il sapessimo, e poi c'è il piattino dove c'è l'uomo intero. E quello li dà un po' di vitamina, specialmente che stanno allevando. Anche per i piccoli fa bene. No, se non mi metto in giardino, niente. Io sono già appettuto. C'era freddo, mi ha portato, ho preso un po' di corrente. Già vuole salvare. Cosa c'è? Guarda di lì. Essere salsiccia, a salvarsi, cosa ne si? No, non me ne di baracco di aiini. E ti la bandi di qui. Lo sto ascoltando, guarda. E bene, sta. Lo sto sapevando, stavo ascoltando. E a me la risposta non manca mai, barra agricola è bruciato. Allora, sì. L'agricola è una scena che oggi abbiamo fatto il filmato così da bizzarro e poi per qua ce l'ha fatto vedere. E già l'ho visto che la bugiardi è registrata già. Che ridere, mi è troppo in gamba. Va bene. E poi per l'agricola ad appunto ci ho rivinto. Mi sto facendo un giro a Sassari, dove sono a casa. Ma dove sei a Sassari? Dove stai andando? Ecco, già vivo io. E che sei andato a fare anch'io? Diretto! E a vedere i signori che sei andato. E qui? Si può comprare un popolo. Dove sta qua molto carina? Si deve molto carina? Sì, sì. Già va bene. Ah, sì, sì. Ti farei via. Oddio, ti conosco. Non a me ti conosco, barra lì. Senta, è una scelta. A Natalino gli ha detto cosa gli ha detto della macchina, la carretta, non so che cosa. La punta della carriola! La punta della carriola, però veritate. Comunque col microfono ci riesce bene. C'è un microfono normale adesso. Ma ce l'ho anche io uguale, solo che lui c'è la vernice di rosso dietro. Ancora lo sta trovando ora, ma non c'ha l'eco. No, no, quello che c'ha barra di piccola sto dicendo, no, l'eco c'era l'apparato mio. Il mio fa un sacco di roba, non mi puoi sentire una cosa. Ecco, ecco, ecco, ecco. E voi, voi, voi, voi, voi. Alessandro! Io non l'ho fatto col microfono, l'ho fatto direttamente con l'apparato. Cappa, questo sì. Quello che c'è in macchina invece c'è il microfono che ha l'eco e l'applicazione. Vabbè, lo vedo. Quello della macchina non l'hai mai sentito come fuga. Quello lì è quello che costa 29 euro. Come si chiama? Diavolo rosso, certo? No, DM1000. Vabbè, vediamo che va bene per quello imbarazzino del studio. Bene, va bene. Mi viene invertito i fili, però tu quando telefoni, se tu li vuoi telefonare su internet c'è il numero di telefono, il telefono direttamente e dici guardi che mi serve per questo tipo di apparecchio, se mi può fare i collegamenti già, e te lo mandano allo stesso prezzo con i collegamenti fatti. Non va bene. Uno di questi giorni, cioè, quando sto con il rapporto, vado un po' per il collaguarmi a vedere un po' di fare cose. Non so, per 10 mi pare. Vabbè, comunque, te lo fai arrivare quando ti arrivavo paghi. Quando il microfono che mi hai fatto sentire adesso si può attaccare alla quarantotto purificato. No, è il baracchino questo qui, non è il microfono, è il baracchino che c'ha lei. Ho capito. Comunque all'ala 48, quello lì va bene, non so se il modificato va bene, ma io ci ho attaccato l'ala 48 di Emilia. Però solo con l'amplificazione magari va anche bene, ma posso andare in contrasto perché l'apparecchio è già amplificato, c'è l'eco, capito? Ma se ci di metterle anche addirittura, cioè il microfono con l'eco. Al tuo adesso va bene, è quello di barra piccola che non va bene perché è già modificato e c'è già l'eco il baracchino, capito? La stessa cosa che io metto, microfono colletto su questo apparato che c'era già. Io metto il barra piccola, no, ma io ho già non ce l'ho, infatti è quello che ho messo il microfono con l'eco. Infatti si può provare, non va da manco, piace parlare tranquillo, però è bello anche da sentire gli altri. Guarda, io lo posso togliere l'eco direttamente, guarda, così sono tranquillo come dici tu. Guarda la voce di tutto, però se ti vuoi dare con la tonalità un po' di eco, te lo aggiungi, capito? Ecco, per la visione non fa altro. Manca nel microfono si può togliere, lo metti a zero e ti lascia solo il microfono amplificato, si amplifica anche un bel. Manca prova a vedere un po' come si comporta, come si sente. Io ti sono contento, questo lo sto prendendo. Sì, sto vedendo sopra, cosa? Io ti sono contento, che sto prendendo questo. Sì, sto passando, non ci sono più nulla, ti sono più da 30 ore. Adesso che lo sto prendendo per far fare, mi sono contento. Poi ti vado a prendere i denti. Quando si può valere questo qui? Questo mi lascia in confusione. Cosa c'è? Però che viene accesa? Sento più la televisione della posizione. Perché questo non si cambia il microfono, capito? Io sento l'audio adesso il televisore. Ma guarda, senti quella voce della televisione, è sotto la sua. Perché più lontano sei e più lo amplifica, capito? Ma con Giovanni stavamo parlando che lui c'ha con l'apparato unico praticamente mi fa l'occhio senza. Cioè, senza avere il microfono con l'eco, capito? Questo microfono è normale, Alessandro. Io stavo dicendo a Napolino che praticamente l'eco glielo fai con la comparazione stessa. Allora. Sì, è integrato nel baracchino, un bel apparato quello. Non lo capisco. Un attimino del bianco, voi fate vedere una cosa, eh? Vediamolo. Vabbè, grazie. Non so quanto costa, Alessandro, questo apparato. Eh? Quanto costa questo apparato, lo sai? Quanto lo pagare? 370 euro. Dopo. Però c'è le luci azzurre, tutto bellino, tutto bello. Va bene, va bene. Dai, un attimino del bianco, dai, che faccio una cosa. Cambio, ragazzi. Va bene, riprendi tu se puoi, vuoi rientrare, dai, adesso, se no, buonanotte. Avanti, Natale. Sono qua. C'è anche Pierpaolo con la freddola. È sempre più rimedico Pierpaolo. E no, cos'è? Sulle. Cosa senti prendi? C'era mi bene. E te se va bene amore. E cosa tu prendi? Chi c'è il lui vicino? E noi aspettando. Stiamo facendo quattro chiacchiere prima di fare solo il lì. Ma il tuo tono e la voce è cacato. Quando cala il tono e la voce mi metti paura. Ma è calato per non disturbare. Senti la voce mascolina Catalina e campagna Boschiglia a buio. Ah, qui non c'è nessuno che posso disturbare. Non è vero, stai disturbando gli uccellini. No, li sto disturbando. Disturbi la coppa. Sono bisogno che la volta che dice la montante va in sorte. Ma sai che non sia. Basta che sentano un bip, una cosa si buona agganciata. Ah, no, sai, non era lì. Lì si buttano dalla gabbia, non è che buttano la montante. Un po' per la arrabbiata si buttano dalla gabbia. E proprio a sé. Qui ci sono gli atti che dopo la mangiare gli uccidi, dove stavo cercando di mangiarli, l'ho buttata giù. No, no, non sono i gatti, no. Il gatto non ce la fa a coricare una voliera così, che è troppo pesante. Magari gli si è saltato sopra e ha dondolato e farato. Cosa dondoleggia e non ce la fa un gatto? Qui si do cane in maduribù. Ma io la sarei prova a caricare la carabina, vedi? Tu non muovi i figli. Mi fa fare abbassare la gara, io si può farmi. Con quella voliera vola. E io mi apposto da guaccone, vuoi un tipo con poco sabidina e tu! È proprio così crudele! È una sabidina in più la gabbia! C'è Curti! Ah, cosa mi ha tutto? È duro di Dio! Ma non penso sia Edu! A chi lo sai, ma deve educare gli animali miei! Cazzo, non toccare gli atti e toccare il bidone! Però stanno cani e gatti che vivono insieme così tranquilli. Prima gli altri li ammazzava i gatti perché l'avevano graffiato quando era piccolo in faccia, l'avevano fatto a striscioni, poveraccio. E allora non è avanzato più neanche uno perché gli altri si è uccisi, capito? Solo che questi due, uno è mio, anzi sono tutti e due miei i gatti. E gli ho detto io di non toccarli, perché lui già stava andando a ammazzarli. Ha detto, guai a te, mi se li tocchi ti taglio le gambe, mi brutto. Non le toccare, mi. E non li tocca, assolutamente. Addirittura il cane di Antonio stava allevando i cuccioletti e gli ho dato, ho regalato un gattino. E si è allevato anche il gatto, lo sai. No, quelli lì gli altri li ammazzavano perché lo attaccavano, lo graffiavano, da tutto, allora dubbiavano e quindi una dozzinata li ammazzava, ma in comune avanzano tutti la moglie. Dopo quegli altri due gli avevo detto io di non toccarli perché sennò erano cavoli. Ma male che ubbidiente. Non voli. Dimmi, che ora ci sono fatti? È tardi. Mezzanotte c'è. E qua. Hai visto qua? Non te c'è forte, no? Cava. Sento bombolino, bombolino, occhio al perizoma. Che bello. Che te ne cade la bomba in terra, eh? Quello. Senta, bombolina, bombolina, cambio. Attenta, Salvatore Ricca, come mi ascolti? Cambio. Ti ascolto, liscia e cara. Attenta, Salvatrica, la bambina dell'altra, Cavagama. Sei chiaro qua, cambio. Quando fai così ti temo, Salvato. Temi, temi. Perché ti temo quando fai così? Con tutto questo elicottero, bubu, quando c'è troppo attente. Oh? Yeah. Gianni, dorme tanto. Siamo qua, ma posso parlare poco, perché qua c'è il bussone. Ciao, e anch'io devo tenere una voce bassa qua. Stiamo calando. Dice, mi ho fatto una russata dopo pranzo, paurosa. Quindi pari un trattore, mi avrà detto. Tu sei distante. Aspetta. Volta anche la posizione. Sì, vabbè, posso. Ma no, io già uso poco, lo uso solo quando sono molto stanco, allora sì. Quindi ti manco la ghiatta soia quando si pone a russare, non fa niente, adesso. E ne ha di castica. Ma tu sei in casa così? Eia, lui sordetta è uno rusoio, il suo è fuffi, però il suo è maledetto, è male, mi sai. E che razza sono, Mazzarì? Sono belli quei gatti che c'ho al Mario. Perché non lo so che razza sono, però sono dei gattoni grandi. E praticamente uno lo tiene isolato, il suo, perché è tipo, se no si attaccheranno tutti i maledetti. Fuffi non è male. Sì. Eia, non li può vedere, l'altro giorno ce n'era uno che lo stavano ricorrendo, è stata una settimana senza scendere dall'altro, nel cane sotto. Miglia Buffi, a chi su mare malandoso si rugoda. Scende, se scende dall'albero, c'è il maschio che è cattivo, c'è la femmina che è più cattiva dal maschio, sono cavoli suoi. Ma Fuffi è sempre al grillo. Ha detto che mi faccio a premare in mano di dare il servizietto. E dove sei, Barraghino? Ma guarda, all'incrocio di casa. Credo sei quasi arrivato. Sì, sì. Una vera. Ti abbiamo fatto compagnia, dai. Ma è il caso dello serio. Sì, entrava... Da vicino entrava, poi da lontano. È devastante, fortissimo. Vai tu, fai da le scuole che manda e sta cosa. Per un buono in casa vai, tutti quanti gli inquilini che prendono la vista, rompete le scarpe. Immaginiamo che ci si avvicina in qualche posto dove ci sono amplificatori. Uia. Già se ne parti quello. Giusto. Mi avete raccontato una volta che una persona si è entrata nel corso, stavano facendo il concerto del trattoretto, ma c'era il palco piazzato in Piazza Italia. Non me lo ricordo, non te l'ho detto io comunque. Una persona, dice che c'era il palco piazzato, stavano provando e tutto entrava esso. Sì, l'hai detto tu, mi pare. Entrava nell'amplificazione, è passato in Piazza d'Italia. Non lo ricordo, vabbè, quasi che sia così, stavolta è così, ma non mi ricordo. Ma comunque più di una volta quando schiacciavi la portata che gli dà un abbacco, che c'era l'allarme e si accendeva. Ah, io una volta ho fatto partire l'allarme di un bar. Stavo parlando con Crista, quello di Alghero, te lo ricordi. Ho attaccato il lineare, cazzo, non ho attaccato il lineare, gatto. Via, ne dice sta ciarada. Gianni, dimmi. Adesso sì, cosa mi succede a me in negozio con la portatina, con l'LPD. Schiaccio il DVD con il canale 1. Schiaccio il DVD e si va in funzione la cassa. Esce lo scontrino. Esce in bianco, va avanti lo scontrino. Schiaccia la portata e suona la cassa praticamente. Ed esce lo scontrino. Come se le mandassi un virus. Cazzo, l'altro giorno schiaccia la portante che c'era Vittorio. Schiaccia la portante e gli dicendo tu mi hai il coso e lo scontrino andare avanti. Cazzo, dritto. Allucinante. Anche con quello lì, con il portatilino. Ehi, infatti che sono mai danni, no, ci sono che mi sono avvicinato, mi sono a schiacciare il tipi e lo so già da anzi. Cazzo di vite, Capita. Vabbè. E nelle PD entra, che è strano, poi siamo alla stessa frequenza più o meno. No, deve essere che entra qualche radiofrequenza, no? In realtà lì, deve essere che prende quella radiofrequenza. Sì, in armonica entrerà sicuramente, e gli fa quegli effetti lì. Sicuramente entra qualche radiofrequenza sul canale 1, però sugli altri non lo fa, ho provato, non lo fa sul canale 1 solo. Fa. Perché il canale 1 magari risuona di armonica su qualche componente che c'è lì e li fa quel lavoro. E sai perché? Perché siccome la Roma va a casa, ce l'abbiamo 3 mesi, è quella che si collega al telefono e cerca il telefono e si collega direttamente all'intendenza e può darsi che ci abbia la frequenza, come qui c'è la scheda di frequenza, può darsi che rientra in quella radiofrequenza. Un attimo di corista. Alessandro, lo stesso è in bianco, ma forse è bracchino. Alex. E tu, Alex, sì. Ok. Capito, deve essere casa, è quella, si trova in quella direttiva, magari, dunque, il cazzo non so. Comunque, fatto sta che quando, e mette anche il bip, perché la casa fa bip, bip, bip, però tu spiace il tasto, no? Ciao.